ti soglio Pierre. Forza netta, ti sta bufera. Fanculo. Non sono snob, sono swag sopra il beat. Il mio flow non ce n'è, se la fi. Faccio conti su conti dopo che conto sui soldi. Vi faccio fuori con un click tonico di Ali su ringa. Faccio un Guinness, tramite chi vince. Io lupo tu una lince, ho rime variopinte. Riempio il grinder, weed winner. Ma è stato meglio che business. Più canne che petardi a capodanno. Dentro il rancore l'affanno. Rivelazione dell'anno, quanto odore su quest'anno. No, non sarò più testardo. Dritto sta cima, rivivo sta stracittadina. Se arrivo la meta è vicina. Hai storie con tua cugina. Storie di chiesa in cucina. Con le storie non si dormiva. Frate che passa del pongo. Carcassa in strada, bagascia stai sotto. Quando stavo in plaza, anche fino alle 8. Quando stavo a casa, a girarle in salotto. Muovo i primi passi della mia carriera. Scaldo in pasto e presso tutto questa amnesia. Sopra una storm martino su un po' carrera. Sono 20 grammi d'oro grezzo in mezzo a sta bufera. A sta bufera. In sta bufera. Tanto tutto non mi fermo al box. Resto in sta bufera. In sta bufera. In sta bufera. Tutto, tutto non mi fermo al box. Resto in sta bufera. Insta bufera, insta bufera, insta bufera, insta bufera. Sangue caldo del sud, un pacco nel surreate tattoo. Ulterior al beat blu, da quando sto in su non guardo più giù. Sul palco YouTube, mio boss in da hur. La mia gente in catene, palazze sirene. Tra razze e mercedes, ragazzi in quartiere. Di cazzo BR, spezza le catene che voglio volare. Riprendi tutto che voglio vedere. Carico scitto che spurbo prima di pagare. I miei amici sono tutti ragazzi per bene. Ma ti consiglio di non starli a provocare. Vieni fra, sempre in giro. Dentro il blunt un giardino. Impresso in testa l'obiettivo. Fare il grano è l'imperativo. Vieni fra, sempre in giro. Dentro il blunt un giardino. Impresso in testa l'obiettivo. Fare il grano è l'imperativo. Muovo i primi passi della mia carriera. Scaldo in pasto e presso tutto questa amnesia. Sopra una Aston Martino su un po' carrera. Sono 20 grammi d'oro grezzo in mezzo a sta bufera. A sta bufera. In sta bufera. Tutto, tutto non mi fermo al box. Resto in sta bufera. In sta bufera. In sta bufera. Tutto, tutto non mi fermo al box. Resto in sta bufera. Insta bufera, insta bufera, insta bufera, insta bufera.